In primo piano. Martedì 15 febbraio sono due le aperture più gettonate dai giornali. Una è proprio la emergenza immigrazione. Dalle rivolte onda emigrazione, così apre il Sole 24 Ore. Maroni, possibili 80.000 nuovi arrivi. Anche per Repubblica, sbarchi, scontro UE Italia, Maroni, arriveranno in 80.000. Per La Stampa, Lampedusa al collasso, lite Roma-Bruxelles. Anche per Il Manifesto, il barcone va. Questo è il titolo, c'è una foto di moltissimi migranti ammassati. C'è invece chi sceglie l'altra notizia di cronaca, una decisione della Cassazione che apre anche la possibilità di adozioni per i single. Così per il Corriere l'apertura adozioni anche per i single e anche il Messaggero adozioni, la Cassazione apre ai single. Insomma, come vedete, le aperture più strettamente politiche per un giorno sono abbandonate, ma c'è anche molta politica sui giornali. Io però voglio iniziare oggi a raccontare un qualcosa che appare sulla prima pagina di Repubblica. Ci sono degli articoli, ci sono dei racconti che, a mio modo di vedere, vanno letti. Questo è uno di quelli, è un bellissimo racconto, un bellissimo articolo di cronaca di Maurizio Crosetti, che narra e racconta la vicenda di Erika. Ve la ricordate Erika? L'autrice insieme a Omar nel 2001, 21 febbraio 2001, del massacro di Novi Ligure, l'uccisione della madre e del fratellino della stessa Erika. Erika 10 anni dopo, ora voglio un figlio. Maurizio Crosetti, inviato a Novi Ligure. Sono passati 10 anni, ancora uno e lei sarà libera. Libera? 10 anni, ma è come se fossero 10 minuti. La villetta è rimasta com'era, il padre ha ritinteggiato le stanze con gli identici colori pastello dopo aver lavato il sangue da solo. Non è mai andato via da lì. Sulle due tombe ci sono fiori freschi, la mamma accanto al bambino. È così che si dovrebbe stare sempre, vicini, però vivi. Anche i muri del corridoio del carcere di Verziano, sobborgo di Brescia, sono chiari. Erika li percorre con passo leggero. Adesso ha quasi 27 anni. Ne aveva 16 quando scannò sua madre Susanna e il suo fratellino Gianluca. 97 coltellate in tutto insieme al fidanzato Omar. Erika e Omar, il male assoluto, era il 21 febbraio 2001. Omar è già fuori. Quando è uscito ha detto «Erika mi è indifferente, non esiste più». Poi ha chiesto di vedere il mare. Chi l'ha incontrata, Erika, è rimasto colpito dalle sue mani, esili, delicate, quasi bianche. Difficile pensare a quelle, le stesse, che tentarono prima di avvelenare e poi di affogare un bambino nella vasca da bagno. Chi l'ha incontrata in questi giorni? Si è sentito ripetere, voglio una vita normale, devo ricostruire, devo recuperare il tempo e quando sarò fuori voglio una famiglia e dei figli. 2 anni fa Erika si è laureata in filosofia a 110 lodi, discutendo una tesi dal titolo Socrate e la ricerca della verità negli scritti platonici. Il padre, l'ingegner Francesco Denardo, c'era come sempre, come dal primo giorno dopo la mattanza, aveva un mazzo di rose per lei. E c'era la zia, c'era la nonna Giuliana, la mamma di Susi, che dice «Erika è cambiata, è più tranquilla, è migliore, una bellissima ragazza, è mio genero, è un uomo eccezionale». Eccezionale anche nel silenzio, mai una crepa, mai una mezza parola in TV o sui giornali. Le uniche sue parole su Erika le leggiamo dallo stralcio dei verbali. Devo proteggerla, al limite anche da se stessa. Una ragazza della sua età deve per forza avere un futuro, ma quando la guardo a volte penso, dove ho sbagliato? Erika Omar l'ha rimosso subito. Dopo un anno già mandava lettere con cuori trafitti da spade a Manuel, giovane rapinatore straniero visto la messa nel carcere Beccaria. Poi si innamorò di Mario, il DJ veronese, che non aveva mai visto. Divenne costui il fidanzato ufficiale con inevitabili comparsate in TV finché non finì con l'auto in un canale e morì affogato. È la maledizione di Erika, si disse. A un amico, Marco, scrisse parole in realtà per la madre e per il fratellino. Perdonatemi, la mia vita è finita, però provo emozioni, non sono pazza. Perdonami, angioletto mio, ti voglio bene. Quella sera dovevo bere io il veleno nel succo di frutta che maledettamente avevo preparato per te. Gianluca, 11 anni, nell'ultimo tema in classe alle medie, aveva scritto «Il mio migliore amico è mia sorella». E beh, è uno straordinario racconto che continua di Maurizio Crosetti, un'intera pagina. «Sono invecchiata ancora Erika, quell'orrore ha cambiato la mia vita». Questo l'ha detto Livia Locci, il magistrato che fece condannare Erika e Omar. «Quell'orrore, il maresciallo dei carabinieri che per primo entrò nella villetta, dopo non la smetteva più di vomitare». e dire che ne aveva viste. È pura macelleria, ripeteva il medico legale. Non sono stati gli albanesi. Furono Erika e Omar. Li beccarono perché Erika mimava le coltellate, li ho colpiti così in questura, e Omar le diceva: vieni qui, assassina. Poi l'abbracciava. 10 anni ed è come se fossero niente. Nella campagna di Novi c'è la stessa luce opaca. Oltre le sbarre di Erika, una lunga fila di pioppi. Chi cerca un senso trova solo silenzio. Beh, questo straordinario racconto di Maurizio Crosetti, Erika, un'altra vita lontano dall'orrore, ricomincio da zero, voglio un figlio, proprio 10 anni fa, era il 21 febbraio del 2001, il massacro di Novi, ricordate, l'Italia si inquietò tantissimo davanti a questo fatto di cronaca nera, ancora un anno ed Erika De Nardo sarà libera. In attesa di approfondire la questione sbarchi a Lampedusa, che è anche il tema del nostro sondaggio, la politica, dicevamo ieri, è la settimana secondo molti decisiva. Ieri la versione di Berlusconi del faccia a faccia con Napolitano è che il capo dello Stato mi ha garantito che finché c'è una maggioranza non intende sciogliere le Camere e comunque, ha detto il Premier, anche se volesse dovrebbe prima consultarmi. Si torna a parlare del tema della governabilità con i numeri in Parlamento e anche si torna a parlare in retroscena della politica del ruolo di Giulio Tremonti. Non è il primo giorno, non è l'ultimo. Ecco qui, secondo Francesco Bei su Repubblica, il Cavaliere tenta l'ultima difesa, ma Bossi e Giulio vogliono il voto. Il pressing è proprio su Tremonti. L'ostacolo definito da Repubblica è Tremonti, il Cavaliere lo va dicendo in giro, una traccia di questa irritazione lo si trova bagnata anche dall'inchiostro di quotidiani d'area come Il Foglio, Il Giornale, che negli ultimi giorni hanno inserito il Ministro dell'Economia nella casella dei sabotatori. In privato ormai è Tremonti il perno delle considerazioni di Berlusconi. Per uscire dalla paralisi il governo deve tornare alla proposta, ma serve che Giulio dia una mano e non può tirarsi indietro. Questo avrebbe detto Berlusconi, che di Tremonti, sempre retroscena, direbbe: non ci sarà per lui alcun dopo se in questa fase non si metterà in gioco. Questa è la versione di Tremonti, ma anche su Libero, il Cavaliere irride Fini e pressa Tremonti, a pagina 7, questa versione: Giulio deve dare una mano, scrive Salvatore Dama a pagina 7, tanto che sul Sole 24 Ore esce uno dei tre editoriali, diciamo, dei tre commenti che troviamo nella tradizionale pagina dei commenti a pagina 12, giù le mani da Giulio Tremonti. Non è facile andare d'accordo col ministro del Tesoro Giulio Tremonti, chiuso, intelligente, capace di far irritare amici, alleati, nemici, passanti con una sola battuta. Abbiamo avuto modo di elogiarlo per la sua tenuta dei conti, pian piano critici irriducibili da prima ora ci sono venuti dietro, magari dissimulando con qualche imbarazzo la reazione, un po' frettolosa. Altre volte lo abbiamo criticato. Ora però viene da dire giù le mani da Giulio, vedendo critiche preventive, fuoco amico da radicali della coalizione di governo, sospettosi che il ministro intigni sui conti e non si impegni su un pacchetto sviluppo. Elogi e critiche ben vengano, ma propaganda preventiva contro il tesoro è oggi assurda. Così in questo commento non firmato sul Sole 24 Ore a pagina 12. E tra l'altro è uno dei temi sui quali Giuliano Ferrara si è più esercitato in questi giorni, insomma, lo stimolo a Giulio Tremonti ora dimostri, come ha detto ieri, non vorrei che facesse la vedetta lombarda silenziosa, ma che si impegni un po' di più. Lo cito perché vi ricordo che Giuliano Ferrara sarà il nostro ospite alle 8:20, alle 8:20 protagonista dell'intervista è il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. La notizia politica però più interessante oggi la trovate sulla Padania. Sulla Padania c'è un'intervista a Bersani, il segretario del PD, che è un vero e proprio elogio sperticato di 2 pagine alla Lega. Facciamo un patto per il federalismo. Questa intervista ha un qualcosa di significativo, certo sulla Padania, non uno dei quotidiani più diffusi, però è sul quotidiano della Lega. Con Bersani che, sentite cosa dice: intendo prendere personalmente un impegno. Penso che sia oggi la Lega a tenere attaccata la spina di Berlusconi, ma presto o tardi si arriverà al dunque. Il processo federalista va preservato, è una riforma storica, epocale per la democrazia italiana. E poi ancora, la Lega Credo che da sempre, pur su posizioni diverse, ci siano solo due forze veramente autonomiste in questo paese, il PD e la Lega. E ancora, Bersani, impegno me e il mio partito a portare avanti il processo dialogando con la Lega, quali che siano gli sviluppi politici. Guardiamo oltre Berlusconi, ma salviamo la prospettiva del cambiamento. E ancora, non ho bisogno che qualcuno mi spieghi che la Lega non è razzista, lo so. Siamo i due partiti popolari. Berlusconi è populista. Il patto che propongo è questo: tra forze popolari, anche alternative, vi siano temi sui quali ragionare insieme. Insomma, una dichiarazione d'amore sperticata da parte di Pierluigi Bersani del PD alla Lega. Anche nel titolo c'è chiaramente il tema: facciamo un patto per il federalismo. Questa è la notizia politica più interessante. PD che lancia, Bersani che lancia un ponte alla Lega. Sul fronte politico, ovviamente, anche oggi una giornata importante, perché si attende che cosa? Si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari di Milano, che dovrà decidere sulla richiesta della procura di Milano che ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi per i due reati, prostituzione minorile e concussione. Non ha ancora deciso il GIP di Milano, che secondo quello che si legge su tutti i giornali è partito già un filone dell'inchiesta che porta a Roma. Nei giorni scorsi avevamo parlato di possibili feste romane un po' come quelle di Arcore, in questo caso al castello di Tor Crescenza, e emergerebbe un ruolo centrale in questo filone d'inchiesta di Roma, vale a dire quello della deputata del PDL Maria Rosaria Rossi, che ha organizzato diverse cene nel castello di Tor Crescenza che l'estate scorsa ha ospitato il premier Berlusconi. Ebbene, leggete qua: feste romane, Milano in via gli Atti alla capitale, questo sul Corriere della Sera, con tanto di intercettazioni nelle quali alcune di queste ragazze, parlando, dicevano: io frequentavo il Giro di Roma, poi ogni tanto venivamo a Milano se c'era qualcosa. Insomma, l'ipotesi è che ci fosse un filone, che ci sia un filone di feste a Roma. E infatti anche il giornale: c'è pure Roma, le feste di Silvio nel mirino dei PM. A pagina 3 Gianmarco Chiocce e Massimo Malpica, tanto che il giornale titola in prima pagina: Berlusconi è caccia all'uomo, scende in campo anche la procura di Roma. Nell'indagine, scrive il giornale, il ruolo della deputata del PDL Rossi è proprio centrale come organizzatrice di queste cene, e secondo il giornale pare che, secondo indiscrezioni, ci sarebbe anche l'ipotesi che intorno al circuito delle cene ci fosse anche un giro di droga, probabilmente rimasto all'esterno dei party veri e propri. E così ovviamente si concentra anche il Messaggero: inchiesta anche a Roma sulle feste del premier, nel mirino le serate del castello di Tor Crescenza, l'ipotesi di reato, scrivono Valentina Errante e Massimo Martinelli a pagina 7, potrebbe essere quella di induzione e favoreggiamento della prostituzione in relazione alle feste estive al castello di Tor Crescenza, la stessa residenza nobiliare che la deputata del PDL Maria Rosaria Rossi aveva affittato nel luglio scorso. E tra l'altro su Maria Rosaria Rossi c'è anche un profilo di Cristiana Mangani: l'onorevole PR addetta a parcheggi e bagagli. È la donna dai mille ruoli, Maria Rosaria Rossi, onorevole del PDL. In pochissimo tempo, grazie alla sua fedeltà, il Cavaliere è riuscito a passare da Madonna di Cinecittà, come erano solito di chiamarla, al decimo municipio di Roma, dove fino a 4 anni fa era consigliera, a Zarina di Tor Crescenza, il castello quattrocentesco dove il premier organizza cene e serate di lavoro e di relax. Il nome della bionda deputata casertana, classe 72, compare nel romanzone a luci rosse del Bunga Bunga di Rubi e delle altre, proprio passando per quel maniero. Pare che l'amicizia e l'amicizia politica con Berlusconi è iniziata quando si è appassionato durante una manifestazione di partito a Cinecittà. Lei si trovava dietro a un banchetto a distribuire volantini, il premier le ha sorriso, la giovane consigliera si è fatta tutta rossa e la scena si è conclusa con un bacio sulla guancia, omaggio del suo leader. Era il 2008, prima delle elezioni politiche. Nel giro di pochi mesi la bionda sostenitrice del PDL, dalla scollatura che non può passare inosservata, si è ritrovata da dirigente locale a parlamentare della Repubblica. questa l'ascesa di Maria Rosaria Rossi nel profilo che ne fa sul Messaggero Cristiana Mangani. Insomma, è una giornata decisiva per la richiesta della Procura di Milano, tanto che oggi mi ha fatto sorridere, comunque la pensiate, comunque una bella battuta, il graffio di Riccardo Barenghi, Iena, pagina 3 della Stampa, speranze, mezza Italia, un solo grido, jeep jeep, urrà! Oggi il jeep di Milano decide sulla rinvia a giudizio di Berlusconi. Se ha qualche problema Berlusconi, sembra letteralmente allo sfascio. Questo è il titolo, per esempio di Libero in prima pagina, ma molti giocano su questa terminologia, allo sfascio Gianfranco Fini e il suo Futuro e Libertà. Libero titola così addirittura: dal fascio allo sfascio esplode la caserma FLI, Futuro e Libertà. La verità è che al primo congresso è stato terminato con una lite abbastanza certificata da tutti i giornali, dei finiani, dei cosiddetti lite tra i falchi e le colombe. Fini, furioso per le liti interne a Future Libertà. È un suicidio. Così a pagina 13 del Corriere della Sera, il giorno dopo l'ira dei delusi non si placa, la decisione di Fini di nominare al vertice di Future Libertà nel ruolo di vicepresidente Italo Bocchino, inviso all'area moderata e nel contempo di marginalizzare il ruolo delle colombe, Viespoli, Urso e Ronchi, continua a scuotere il neonato partito, tanto che sui vari giornali si parla di vera e propria resa dei conti su Repubblica, Futura Libertà, oggi la resa dei conti tra falchi e colombe, si parla di parlamentari pronti già ad abbandonare il partito, Futura Libertà a rischio rottura, anche a pagina 17 del Sole 24 Ore, Lina Palmerini, sconcerto e amarezza di Urso, corteggiato dal Cavaliere. Insomma, c'è tra l'altro da sottolineare un'intervista sul Corriere della Sera a chi? A Daniela Di Sotto. Chi è Daniela Di Sotto? Beh, è la prima moglie di Gianfranco Fini, la moglie della quale ha divorziato e ora Gianfranco Fini sta con Elisabetta Tugliani. Daniela era non in prima fila, era un po' defilata, ma era al congresso di Future Libertà. Lo stimo, 30 anni insieme, non si cancellano. Viene intervistata da Andrea Garibaldi. Non si cancellano 30 anni di vita assieme. Nessun rancore, non sarebbe giusto. Sono una mente libera e sono la madre di Giuliana, la prima figlia di Fini. Beh, poche donne e uomini parlerebbero così, dice il giornalista del Corriere. Mi sono sempre piaciute le minoranze, gli indiani d'America, la destra, la Lazio. Un comportamento come il mio, però, dovrebbe essere la norma. Nessun rancore anche nei confronti di Elisabetta Tugliani? Elisabetta chi? Risponde la ex moglie di Fini. Si è iscritta a Future Libertà? Sì, sono tornata a casa. Io non c'ero né al congresso di Fiuggi che fondò AN né al congresso del PDL. Non ero favorevole. Beh, Fini almeno in quei casi sbagliò, fece le sue scelte, dice la ex moglie. Politicamente Fini non ha mai sbagliato, la sua intelligenza politica è notevole. Riguarda i problemi fra i colonnelli, dice Gianfranco, risolverà, come sempre. Vi sentite spesso? Quanto basta? Abbiamo una figlia. C'è ancora un po' di amore? Cioè, l'intervista adesso scivola un po' nel pettegolezzo. Quanto basta? No, quanto basta? Abbiamo una figlia e ci sentiamo sulla domanda. Vi sentite spesso? C'è ancora un po' di amore? No, ormai amore no. Affetto, grande stima. Quando eravate una coppia, Fini si consultava con lei sulle scelte politiche? Assolutamente no. Questa è la risposta della ex moglie di Fini. E vabbè, Fini che certo non sta passando un buon momento, doveva essere il congresso del rilancio, è il congresso che ha portato più problemi per il momento che altro. I travolti dall'orda e l'Unione Europea dorme, così titola La Padania, il quotidiano della Lega, in prima pagina. Sul Sole 24 Ore, dalle rivolte onda e migrazione, sono 80.000 le stime degli arrivi. Con, tra l'altro, Repubblica dice sono troppi, ora basta, la rivolta di Lampedusa, dove è stato aperto temporaneamente il centro di identificazione ed espulsione. C'è il capo dell'antimafia, il presidente della commissione antimafia Pisanu, che è intervistato dalla Stampa, pagina 5, da Guido Ruotolo, dice: Italia ed Europa miopi e ciniche, era tutto prevedibile. Pisanu fa anche una velata critica alla politica italiana, che in questi anni si è ristretta nell'ottica di buoni rapporti con la Libia e invece doveva guardare a un orizzonte molto più vasto. Sta di fatto che questo è il tema del nostro sondaggio. Vi chiediamo, secondo voi è un problema più italiano o è un problema che deve essere fronteggiato dall'Unione Europea? Oggi Berlusconi andrà in Sicilia. Tra l'altro Ugo Magri su La Stampa dice che Berlusconi saprà in qualche modo saltare su questa vicenda e trasformarla in qualcosa di positivo per se stesso, per la propria immagine, perché, come scrive Ugo Magri, Berlusconi è il Berlusconi del "che pensi mi", e quindi lo vedremo stamane precipitarsi in Sicilia, fare dichiarazioni, in mille dichiarazioni che daranno conto delle telefonate in Europa. Insomma, le calamità sono la forza del cavaliere, perché lui ne profitta per balzarci sopra al grido appunto del "che pensi mi". Così Ugo Magri sulla Stampa. Vabbè, cosa troviamo di altro sui giornali? Trovate molto di questa vicenda, secondo molti è l'apertura delle adozioni, la Cassazione in una sentenza che riguarda una donna single di Genova che vuole essere mamma di una bimba russa. In realtà ha detto di no, cioè ha detto non può essere madre a tutti gli effetti, nel senso non può adottarla pienamente in modo legittimo come avviene per i coniugi. Però la Cassazione ha invitato il Parlamento a legiferare, ben potrebbe provvedere nel concorso di particolari circostanze a un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona. Insomma, visto che non c'è la legge, la Cassazione non è che ha potuto dare in adozione questa bambina a questa donna, però ha invitato il Parlamento a dire forse è il caso di pensare a fare a legiferare anche per l'adozione per i singoli. Ovviamente il dibattito è aperto, non è neanche escluso che possa essere il tema del nostro dibattito domani mattina: adottare anche per i singoli. Ieri ho iniziato la rassegna stampa oggi parlando del racconto straordinario di Maurizio Crosetti su Repubblica, che in qualche modo dopo 10 anni ci racconta chi è Erika De Nardo, cioè colei che ha ucciso madre e fratellino a Novi Ligure. C'è anche un'altra intervista, o meglio un racconto dal carcere su Libero, Cristiana Lodi a pagina 21 approfitta del fatto che due parlamentari sono andati in carcere a trovare Michele Misseri, il contadino di Avetrana accusato dell'omicidio della nipote Sara Scazzi, ed ecco qui: intervista zio Michele. In realtà sono qualche dichiarazione presa da questi due parlamentari che l'hanno trovato in carcere. A casa era l'inferno, in carcere sono rinato. Eccolo qui: pensare che prima di portarmi qui mi ripetevano "vedrai, se finirai in galera troverai l'inferno". Ma io qui l'inferno mica ce l'ho trovato, sai? Semmai l'inferno era prima, certo mi manca la famiglia, chi non mancherebbe il sangue del tuo sangue, ma adesso io qui sto benissimo. E poi mostra le mani ai due parlamentari: vedete, a casa lavoravo e prendevo solo mazzate, adesso è tutto finito, guarda le mie mani, lo vedi? Non sono più nere di lavoro, sono belle, pulite, mai state così bianche le mie mani. Alle 3 del mattino a casa mi alzavo, andavo in campagna, qui invece posso dormire, riposo, mangio e leggo. Ma come in un hotel. A casa era l'inferno, in carcere sono rinato. Così lo zio Michele Misseri, che dice: guardate, prende in mano una rivista in cui sulla prima pagina c'è Madre Teresa di Calcutta. Prima leggevo questo giornale 10 volte e stai sicuro che non ci capivo proprio niente, ma niente di niente, te lo giuro. Adesso mi basta una volta e capisco già tutto. Così su Libero Michele Misseri. Concludo, non c'è ancora molto di Sanremo, non c'è ancora nessuna polemica, l'unica è di Davide Rondoni a pagina 2 di Avvenire, che titola così: Sanremo ormai si può chiudere. Davide Rondoni, lo scrittore intellettuale su Avvenire, sì, ebbene sì, dice: dateci un motivo per canticchiare qualcosa e se no, beh, chiudetelo. L'anno dell'unità potrebbe essere un buon anno per farlo morire. Avvenire che dice: chiudete il festival di Sanremo. Infine voglio fare una citazione della Gazzetta, perché bisogna alzarsi tutti i calciofili, tutti gli amanti del calcio, bisogna veramente oggi alzarsi in piedi, perché si ritira un grandissimo del calcio, uno dei più grandi, Ronaldo. La Gazzetta gli dedica tutto un delle paginone centrale. Ronaldo esce di campo, l'abbiamo sentito anche in GR Sport, tra le lacrime. Dice: finisco la carriera, mai penso a un'azione di gioco, ma non riesco a farla. Tra l'altro svela anche: soffro da anni di ipotiroidismo, mi rende più lento il metabolismo e mi hanno anche preso in giro perché prendevo chili di troppo, ma ora mi dovranno chiedere scusa. Ronaldo se ne va. Ora è tempo di GR, riprendiamo con Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, alle 8:20.